perché non c'è nulla, assolutamente nulla su Urras di cui noi anarresiani abbiamo bisogno. Noi la lasciamo con le mani vuote 170 anni fa e avemo ragione. Noi non prendemmo nulla perché qui non c'è altro che gli stati e le loro armi, i ricchi e le loro bugie e i poveri e la loro miseria. Non c'è modo di agire rettamente con un cuore trasparente su Urras. Non c'è nulla che possiate fare in cui non entrano il profitto e la paura di una perdita e il desiderio di potere. Non puoi dire buongiorno a una persona senza sapere chi di voi è superiore all'altro o senza cercare di dimostrarlo. Non puoi agire come un fratello verso le altre persone, devi manipolarle o comandarle o obbedire loro o imbrogliarle. Non puoi toccare un'altra persona, eppure non ti lasceranno mai solo. Non c'è libertà, è una scatola, Urras è una scatola, un pacchetto con tutta la sua meravigliosa confezione del cielo turchino e dei prati e delle foreste e delle grandi città. E tu apri la scatola e cosa ci trovi dentro? Una cantina buia piena di polvere e un uomo morto! Un uomo cui fu troncata la mano perché la tendeva agli altri. Sono stato all'inferno infine! E sì, aveva ragione, è Urras! L'inferno è Urras! I reietti dell'altro pianeta di Ursula Le Guin. Noi siamo l'Aspro, rivista di letteratura, arti e mestieri, e qui comincia il nostro reading, pezzi di letteratura sociale, e siamo contenti di essere qui stasera. E un pensiero di gratitudine va ai compagni e alle compagne dei Castelli per aver cacciato via quel boia di Priebke anche in suolo sconsacrato, anche da morto. Veramente grazie. Un'estate affrigge il mio cervello sulla Turchia, il Brasile, l'Egitto, la Siria, la Val Susa, Niscemi. E poi ecco che arriva l'autunno caldo, finalmente a Roma. E arriva pure una telefonata. Lu, io sto andando, c'è già un macello di gente, precari, disoccupati, comitati per la casa da tutta Italia, no TAV, no MUOS, addirittura gente da Istanbul e dal Cairo. Ma poi quelli ormai non si stanno scannando come cani, io non ci sto capendo più un cazzo. Pasquale, aspetta un attimo, non posso venire, sto andando al lavoro, c'è il turno di pomeriggio. Ma che stai a dì? Vabbè, tanto ormai è rivolta, passato mattina, manco, domani attacco alle 8 e stacco alle 3. Facciamo che vengo domani pomeriggio, che sono libero, ok? Tempo che arrivo da casa Lattiboccea, poi magari dopodomani prendo un paio d'ore di permesso. Pasquale mi manda a fanculo amareggiato. Io riattacco col magone. Ma che succede? Non volevo essere in prima linea in un'ipotetica rivolta romana. Come no? Quest'estate mi ero pure detto che sarei andato a Niscemi, a Chiomonte, per apprendere le pratiche di lotta. E invece, 10 giorni di ferie, esaurito e stanco morto, ho deciso di non pensare a un cazzo. In realtà di pensieri ce n'erano e come. Il giusto quantitativo per preparare questo maledetto autunno caldo e fare strage di ingiustizie e diseguaglianze sociali, rivoltarmi. Un pensiero fisso. Non so in che modo, ma lo voglio. Sono anni che ci penso e ora che il terreno sembra essere finalmente caldo, io mi sento quasi immobile. Il cervello corre, ma il corpo continua a fare l'automa.